Sono le 13. GR 24, il sole 24 ore. Dopo 15 mesi c'è la ripresa, a luglio, agosto e settembre il PIL è tornato positivo. Positivi sono anche i numeri di un rapporto ACI-Istat sugli incidenti stradali, in calo nel 2008, il rischio cresce nel weekend. Magistrati ancora sul piede di guerra per il processo breve, irrazionale e irrealistico per il segretario dell'ANM, Cascini. Obama in Asia per la prima visita ufficiale col Giappone, visione comune, no ad armi nucleari. Una buona giornata ad Alessio Maurizio e dalla redazione, benvenuti a questa edizione di GR24. Buone notizie dunque per l'economia italiana, coi dati preliminari dell'Istat che segnalano l'arrivo della vera e propria ripresa. Proprio oggi il governo porta la finanziaria in Senato, ci sarà il voto della parte economica, parleremo più avanti. Prima i numeri, anche questi positivi, che riguardano gli incidenti stradali in diminuzione nel 2008, secondo l'ACI. Si muore meno sulle strade italiane. Nel 2008 è stato registrato un calo del 7,8% delle vittime. Diminuiscono anche feriti e sinistri. Si muore meno, ma si muore ancora troppo. L'Italia, infatti, sottolinea il rapporto ACI-Istat, rimane lontana dall'obiettivo europeo di ridurre del 50% le vittime della strada entro il 2010. Luglio, il mese più nero. Sabato, il giorno con più morti. Le 18, l'ora critica, quando all'incremento del traffico per gli spostamenti dal lavoro si aggiunge la stanchezza della giornata e la riduzione della luce naturale. Meno incidenti di notte, ma più pericolosi. Le cause più frequenti: il mancato rispetto delle regole di precedenza, la guida distratta, la velocità elevata. Avarie e difetti del veicolo generano solo lo 0,4% di sinistri. A perdere la vita sono soprattutto giovani tra i 25 e i 29 anni, mentre i feriti presentano il valore massimo tra i 20 e i 24. Infine, i luoghi più pericolosi: le strade urbane con il 76,8% degli incidenti e le strade extraurbane con meno incidenti ma più morti. Più sicure le autostrade. Alessandra Schepisi, GR24, il sole 24 ore, Roma. Come detto, l'economia italiana riparte dopo 15 mesi di caduta continua. Nel terzo trimestre del 2009, secondo le stime preliminari dell'Istat, il PIL infatti è aumentato dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti, segnando la prima crescita congiunturale dopo 5 trimestri di dati negativi. Il calo dell'economia già acquisito per quest'anno è attualmente del 4,8%. E la finanziaria passa oggi al voto al Senato. La trattativa tra il governo, la maggioranza e l'opposizione da un lato prosegue. Oggi al Senato, come detto, ci dovrebbe essere il voto finale. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Lavori a rilento qui a Palazzo Madama sulla finanziaria. Il voto finale, atteso inizialmente per le 13, slitta di fatto al pomeriggio. La Commissione Bilancio ha preso più tempo del previsto per l'esame di alcuni emendamenti, tra questi quello cosiddetto omnibus a firma del relatore Saia, che contiene tra l'altro il pacchetto agricoltura, le norme su sicurezza, giustizia e difesa. Tra breve quindi le dichiarazioni di voto e il voto finale. Il provvedimento, lo ricordiamo, passerà alla Camera. E per quanto riguarda, tu accennavi ad alcuni capitoli, i temi su cui sta lavorando il governo, cosa c'è sul tavolo, Vincenzo? Sì, l'ultima versione dell'emendamento del relatore Saia, Popolo della Libertà, conferma l'aumento di 100 milioni all'anno dal 2010 dei fondi per il comparto sicurezza e difesa, in arrivo anche le risorse derivanti dalla vendita di circa 3.000 immobili confiscati alla mafia, che saranno destinate al 50% proprio alla sicurezza e al 50% al funzionamento della giustizia. Tra le micromisure di stampo agroalimentare, oltre alla detrazione IVA sui tartufi, tornano i 10 milioni di aiuti nel prossimo anno alla produzione di prodotti a stagionatura prolungata. Novità invece per quanto riguarda la riduzione del contingente annuo di biodiesel agevolato per uso agricolo, scende da 250.000 a 18.000 tonnellate. Restano fuori al momento misure dal forte impatto come la riduzione IRAP e la Banca del Sud. E da Roma è tutto, linea allo studio. Eh sì, grazie Vincenzo Miglietta. Invece ieri, per quanto riguarda misure di più largo impatto, se restano fuori l'IRES e l'IRAP, ieri diciamo il Consiglio dei Ministri ha deciso un taglio dell'acconto IRPEF del 20%. A beneficiarne saranno le piccole e medie imprese, ma anche le ditte individuali, le società di persone, i liberi professionisti, oltre naturalmente al popolo delle partite IVA. Ma sono coinvolti anche i dipendenti. Anna Marino ha chiesto al professor Tonino Morina, professore di diritto tributario della Scuola Superiore di Economia e Finanze a Roma, se questo sconto alleggerirà le tasche di tutti i dipendenti. No, la risposta è negativa, nel senso che se il dipendente ha solo la busta paga e quindi non ha altri redditi, non ha alcun beneficio da questa riduzione. La riduzione riguarda chi paga l'IRPEF in acconto entro il 30 novembre, anche i dipendenti, ma solo nel caso che il dipendente ha altri redditi, esempio se il dipendente ha redditi di partecipazione in attività artigianali o commerciali, e quindi nel caso in cui questo dipendente che ha altri redditi dovesse aver da pagare un acconto per esempio di 2.000 euro o di 4.000 euro, dovrà rifare i calcoli con la nuova misura del 79%, pagando quindi meno del 20% rispetto alla misura attualmente prevista che è del 99%. Ma attenzione, la riduzione poi dovrà restituirla, perché in sede di saldo dovrà pagare il 100% delle imposte dovute. Ora parliamo di giustizia, perché i magistrati restano sul piede di guerra dopo la presentazione della legge sul processo breve. Ricordiamo 3 articoli con i quali si prevede che la durata dei processi penali non deve superare 2 anni in primo grado, 2 in secondo, 2 in Cassazione, ne beneficeranno solo gli incensurati, esclusi il terrorismo, la mafia e l'immigrazione clandestina. Oggi a parlare di norme irrazionali e irrealistiche è il segretario dell'ANM Cascini, che dice i difetti congeniti della procedura penale in Italia rendono irrealistica la conclusione dei processi in soli 2 anni, che quindi cadranno in prescrizione. Ospite questa mattina di Oscar Giannino a 9 in punto, Vittorio Grevi, docente di diritto penale all'Università di Pavia. Sentiamo il suo commento. Comunque la nostra Costituzione prevede la ragionevole durata dei processi, e questo principio però significa che la legge deve fare in modo che i processi si concludano con una sentenza di merito che diventi irrevocabile entro un termine ragionevole. Certamente non corrisponde a questo obiettivo un'eventuale disciplina che stabilisse che, scaduto un certo termine, i processi si estinguono, perché in questo modo i processi non si fanno, quindi la giustizia viene negata. Certamente c'è un problema di disparità di trattamento fra categorie di imputati, anche rispetto ai reati, per quanto riguarda in questo disegno di legge i reati esclusi e gli imputati esclusi dalla mannaia rappresentata dalla prescrizione del processo, perché per esempio per gli imputati incensurati rispetto ai recidivi, perché il diritto alla ragionevole durata spetta a tutti gli imputati indipendentemente dal reato e indipendentemente dalla situazione giuridica. Così il professor Vittorio Grevi sulle norme che riguardano il processo breve. Il nostro sondaggio di oggi riguardava ancora una volta il tema della giustizia, ma in particolare la questione dell'immunità parlamentare, principio democratico o privilegio da non reintrodurre. Vi chiedevamo queste le vostre risposte. L'immunità parlamentare è un privilegio che non va reintrodotto. La pensa così l'85% dei nostri ascoltatori, dopo le proposte di legge che mirano a riproporre questo principio stabilito dai padri costituenti e poi tolto sull'onda di Tangentopoli nel 1993. Evidentemente oggi la sua reintroduzione appare come un privilegio di casta. Gerardo D'Ambrosio, oggi senatore del PD e nel 93 magistrato a Milano, è d'accordo. Siccome c'è un principio che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, non riesco a capire per quale ragione il parlamentare non debba essere sottoposto a procedimento penale quando commette un reato. Questo non riesco a capirlo, anche perché nel nostro codice c'è nella nostra Costituzione c'è una presunzione di innocenza fino alla sentenza passata in giudicato. Bianco o nero torna a lunedì mattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. La cronaca ora: sono responsabili di diverse rapine armate contro furgoni portavalori. La polizia ha arrestato 7 pregiudicati. Sentiamo. 7 arresti per un'indagine che ha attraversato l'Italia da Bergamo a Foggia. Si conclude così la storia della violenta rapina a un furgone portavalori avvenuta sull'autostrada Milano-Venezia nel giugno del 2008. Quel giorno una banda di 10 uomini armati di Kalashnikov aveva assaltato un furgone portavalori nel tratto della A4 che fa capo al comune bergamasco di Seriate. Usarono delle moto troncatrici per il taglio del portellone blindato e rubarono 1.800.000 euro. Tutti italiani gli arrestati. Le indagini sono state svolte dagli agenti della squadra mobile di Bergamo e Foggia. Il capo del comando era pugliese, assieme ad altri malviventi risiedeva a Foggia. Alcuni della banda da tempo però vivevano in Lombardia e si erano specializzati nella tecnica di assalto a furgoni portavalori con tanto di complici per l'appoggio logistico sul posto. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Potrebbe essere questo il primo weekend utile per andare a sciare, sentiamo. La neve già caduta da alcuni giorni ha permesso a molti impianti l'apertura anticipata. Se fino a qualche settimana fa si prevedeva di avviare la stagione sciistica ai primi di dicembre, in molti invece hanno deciso di iniziare già da oggi. La neve abbondante caduta nei giorni scorsi in Piemonte, dove a 2000 metri ne sono scesi 80 centimetri, ha accelerato l'apertura degli impianti a Limone, Pian del Leone e Prato Nevoso. Neve record a Cortina e impianti aperti già da oggi, ma per avere l'abbonamento stagionale del Dolomiti Super Ski bisognerà aspettare il 28 novembre. In Trentino ad aprire la stagione domani saranno San Martino di Castrozza e Madonna di Campiglio, prime sciate sui tracciati di Passo Rolle coperti da 50 cm di neve. In Alto Adige, sul ghiacciaio a Solda, si scia già da 10 giorni, ma tutti gli impianti saranno pronti per il ponte di Sant'Ambrogio. Elisa D'Alto, GR24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo parlato poco fa della giustizia e c'è una notizia, una dichiarazione del leader dell'UDC, Pier Ferdinando Casini. Questo DDL per abbreviare i processi, dice Casini, è realmente una porcheria, letteralmente un provvedimento che dimentica le vittime, fascia l'ordinamento e abroga la giustizia. Il leader dell'UDC suggerisce di ritornare al lodo Alfano da approvare con legge costituzionale. Adesso parliamo di cinema, andiamo a Torino, parte oggi il Torino Film Festival, sentiamo. 27esima edizione, 254 film, tanti ospiti. Per la prima volta il Torino Film Festival è diretto da Gianni Amelio. È un'identità forte nella ricerca. Ci sono festival che hanno come scopo principale quello di presentare i grossi nomi, i grandi titoli, o preoccuparsi molto del tappeto rosso. Torino non ha mai avuto questi problemi. Torino ha cercato sempre, essendo un festival di opere prime o seconde, di trovare il futuro autore. Quindi è un ruolo che gli altri festival non hanno né vogliono avere, e questa è una cosa che va conservata. Tra le novità il premio Cult per il miglior documentario internazionale in collaborazione anche con Radio 24. Apre oggi l'anteprima di Nowhere Boy, primo lungometraggio della regista inglese Sam Taylor Wood, incentrato sugli anni giovanili di John Lennon. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. La seconda parte, nella prima ci siamo occupati della ripresa dell'economia in Italia. L'Istat segnala luglio, agosto, settembre il PIL in crescita dello 0,6% dopo 5 trimestri negativi, e positivi sono anche i dati, sempre Istat e anche ACI, sugli incidenti stradali, in calo fortunatamente nel 2008. Per quanto riguarda la giustizia, magistrati ancora sul piede di guerra per il processo breve. La riforma non piace nemmeno al leader dell'UDC Casini, che dice una porcheria. In Parlamento diremo di no. Adesso le altre notizie, a cominciare dalla visita di Obama in Asia. Japan is my first stop as president in Asia. Queste le parole poco fa in conferenza stampa, dice Obama. Il Giappone è la mia prima sosta qua in Asia. Ho iniziato il mio viaggio qua a Tokyo perché l'alleanza tra Stati Uniti e Giappone è fondamentale per la sicurezza e la prosperità non solo dei nostri paesi, ma per tutta la regione del Pacifico. Sentiamo ancora Obama. Questo dunque il presidente americano. Ci colleghiamo con l'inviato del Sole 24 Ore, Mario Platero. Buongiorno Mario, che cosa è stato detto? Quali sono i temi Buongiorno. Di questa visita? Sono ancora a Palazzo Cantei, dove si è tenuta la conferenza stampa terminata letteralmente pochi minuti fa. L'incontro fra il presidente Obama e il primo ministro Hatoyama è andato un po' come ci si aspettava, con ovviamente un elemento di tensione sulla questione Okinawa. Il primo ministro giapponese eletto, ripetiamolo, in agosto, quindi rappresenta una nuova classe politica giapponese, ha chiarito che vuole innanzitutto mantenere un rapporto straordinariamente paritetico con gli Stati Uniti e che vuole rivedere l'accordo strategico firmato 50 anni fa per la difesa comune. In questo contesto, ha detto, dovremo anche negoziare Okinawa e non sarà un negoziato facile. A voi la linea. Grazie Mario Platero. E sul resto naturalmente della visita di Obama in Giappone e in Asia vi aggiorneremo nel corso delle prossime edizioni dei giornali radio. La prima conferenza stampa, come sentivate, è terminata pochi minuti fa. Restiamo su temi internazionali, parliamo della lotta alla fame, la sicurezza alimentare che sono per eccellenza il banco di prova su cui il sistema multilaterale può dimostrare la sua efficacia, ha detto oggi Gianfranco Fini, perché l'alimentazione è un diritto fondamentale. Fini parlava nella sala della Regina di Montecitorio alla giornata parlamentare in occasione del vertice sulla sicurezza alimentare che si terrà, come sapete, a Roma nei prossimi giorni. Tra i presenti anche il direttore della FAO, Jacques Diouf, il ministro degli esteri Frattini, secondo il quale è miope invocare la crisi economica per ridurre gli aiuti ai paesi più poveri. Il presidente del gruppo italiano interparlamentare Antonio Martino rilancia l'allarme della FAO. Sentiamolo. È proprio di oggi il grido d'allarme dei vertici FAO. Oltre 1 miliardo di esseri umani in pericolo. Servono risorse e azioni decisive. Una crisi finanziaria globale ha colpito il mondo attuale, trasformandosi, come era ovvio, in crisi economica, con conseguenze gravi sul piano sociale, soprattutto per le popolazioni meno fortunate. Poiché la crisi finanziaria che ha investito il sistema bancario prima e quelle delle imprese poi può verosimilmente sfociare in una vera e propria crisi sociale, dobbiamo compiere ogni sforzo per evitare di chiuderci in una sorta di dannoso protezionismo, con conseguenze prevedibili ma del tutto incontrollabili. E questo Antonio Martino, il presidente del gruppo italiano interparlamentare, che rilancia l'allarme della FAO. Adesso invece torniamo in Italia e parliamo del centro islamico di Viale Jenner a Milano. Se ne parla perché potrebbe avere entro i prossimi 2 mesi un nuovo imam. Si tratta di una nomina fatta per sollevare l'attuale imam Abu Yamad Imad dall'incarico perché, come sapete, è stato condannato 2 volte ed è in attesa di giudizio in Cassazione. Come si nominerà il nuovo imam e quale è lo stato d'animo all'interno della moschea milanese? Cristina Carpinelli lo ha chiesto al responsabile del centro islamico di Viale Jenner, Abdelhamid Shari. Stiamo cercando, non abbiamo trovato, stiamo valutando 3 o 4 o 5 persone, la dirigente decide chi può essere il nostro imam, da una parte direzione, assemblea e così via. Poi c'è anche la prova del popolo, cioè quando l'imam va e dice la preghiera, la gente lo accetta o non lo accetta, perciò ci sono 2 gradi di giudizio da noi. Uno è quello della direzione, è responsabile, secondo quello del popolo che ci sono tanti imam che la gente non li accetta, cioè, come per dire, sono un po' scarsini. Ma perché state cercando un nuovo imam? Imam che è condannato 2 volte, sta aspettando la Cassazione, è giusto che faccia un passo indietro, prima per affrontare le cose con più serenità, secondo per in caso di condanna abbiamo un imam in cambio. Sempre più spesso i computer e le nostre comunicazioni digitali vengono utilizzate come prova nei processi, accaduto anche in Italia. Accade spesso, per esempio, che servono per incastrare un imputato, ma ora anche come alibi. L'ultimo caso riguarda un teenager americano. Si chiama computer forensics o informatica forense, quella scienza che studia le tracce digitali che ognuno di noi crea quando usa un computer o naviga in internet. Sempre più spesso la possibilità di rintracciare queste briciole elettroniche può servire per incastrare o più raramente scagionare un imputato. Finora i cosiddetti post sui social network non erano contemplati, ma per la prima volta negli Stati Uniti un messaggio lanciato su Facebook è servito ad un ragazzo di 19 anni per salvarsi dal carcere dopo essere stato arrestato per furto. Il suo avvocato è riuscito a dimostrare che il ragazzo al momento del fatto era a casa del padre. Prova nera: un messaggio sul social network più famoso del mondo, scritto proprio dal computer di famiglia. Molti esperti sono però scettici sulla robustezza di una prova del genere perché è necessario dimostrare che dietro a quel computer c'era proprio l'imputato. E nel caso del 19enne di New York, la giuria si è infatti basata anche sulla testimonianza del padre. Enrico Pagliarini, GR24, Il Sole 24 Ore. C'è un nuovo museo in Italia, progettato dall'architetta anglo-irachena Zaha Hadid, il nuovo Museo Pubblico Italiano delle Arti del XXI secolo, il Maxi di Roma, sarà infatti aperto al pubblico per tutto il weekend, vuoto in questa occasione per mostrarlo, diciamo così, in tutta la sua bellezza architettonica. Si dovrà però aspettare il maggio dell'anno prossimo per l'inaugurazione vera e propria con le opere d'arte in mostra, un museo bipartisan perché voluto dai vari governi che si sono succeduti. Sentiamo il presidente della Fondazione Maxi, Pio Baldi, al microfono di Adriana Fracchia. I lavori sono durati 6 anni 10 anni fa è nata l'idea di fare un museo, è nato il pensiero del museo, e poi i lavori sono cominciati nel 2003. C'è stata una difficoltà per noi di interagire ogni volta con un governo diverso, però devo dire che l'idea del museo cominciata con un governo di sinistra, fu esattamente il ministro Veltroni dei beni culturali a avere per prima l'idea, poi è continuata con altri governi di destra, di sinistra. Su 6 governi 3 erano di destra e 3 di sinistra. L'ultimo governo, questo, è di destra, e il ministro Bondi ha dato un impulso notevolissimo per lo start-up finale, per l'inaugurazione. Quindi sono particolarmente soddisfatto, orgoglioso, non so come dire, ma sì, perché è un'opera di cultura e non di parte. Ecco, l'Italia in questo è il piccolo di un museo, però si è dimostrato che un'opera di cultura come questa è stata in ugual modo sostenuta dai ministri da una parte e dell'altra. I costi sono cambiati nel tempo rispetto ai progetti iniziali? Sono 150 milioni, però siamo leggermente al di sotto dei costi di altri musei che sono simili al nostro. E ora parliamo di sport. Con il calcio, la nazionale azzurra prepara l'amichevole di domani a Pescara contro l'Olanda. Nell'allenamento di questa mattina il CT Marcello Lippi ha provato Candreva e Palladino tra i titolari. È chiaro che abbiamo una grossa fiducia di passare il turno, considerando partita anche casalinga, però stiamo attenti che non è ancora, non si può dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Per l'occasione si può rispolverare una delle frasi storiche del settantenne più gagliardo del calcio mondiale. Il suo sogno, guidare i boys irlandesi ai mondiali in Sudafrica per cancellare la Corea e l'arbitro Moreno e magari ritrovarsi di fronte quell'Italia che ha appena incontrato da CT. Tra Dublino e Johannesburg c'è di mezzo la Francia di Domenech, l'allenatore eternamente appeso ad un filo, sfiduciato da federazione e squadra. Trapattoni invece ha un paese intero alle sue spalle. I giocatori lo adorano, i tifosi lo hanno eletto a simbolo, spopola il poster con la scritta Hope, speranza, sotto il ritratto stile Obama del Trap, che qui in Irlanda ha fatto l'ennesimo centro, grazie a quelle doti che ricorda chi lo conosce bene, come Giovanni Lodetti, per 10 anni al fianco di Trapattoni al Milan. Con il carisma, con la determinazione, con la volontà e con la forza di voler ottenere a tutti i costi i risultati con il suo carattere. Chi insegna calcio come lui non passa mai, e non è vero che gioca un calcio antico, mica è vero perché uno deve giocare con 10 attaccanti che sia moderno. E allora good luck Trap, sarebbe bello ritrovarti in Sudafrica. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione 13:27, la linea tra poco va a Stefano Pistolini con Buongiorno America, edizione del GR a cura di Alessio Maurizi che era anche in studio, il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Carmelo Lauricella, è tutto. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.